fanno male queste cose. Io adesso prima di mangiare vi faccio l'insulina, vi prendo la glicemia, secondo quanto ciò vi faccio l'insulina e non mangio, perché sennò domani mi gribbano perché mi dicono se non è vero che li misuriamo la glicemia. E tu dici, ah boh, questa glicemia è pazza, sale e scende, non la ci mangia nulla. Mi credi domani, è bello che in questi giorni ce l'avevo sempre 125-130. Stava andando bene, è giusto Donino, ma ha cribbato tutto. Così vuole Gianni, gli amici si vedono lì, meno Natali. Ma cazzo, ci sappia di qui anni fa il controllo, non ne doveva mangiare, no cazzo. Il bacco ha fatto e si è fatti luci. Ma è come un drogato, no? Tu gli metti la droga davanti, diciamo che non abita, la mate si cosa, vabbè dai, già va bene lo stesso. Kappa. Stavo guardando una cosa, sì. Ma vabbè, se tu l'assaggi, se non muori tu, l'assaggi anch'io. Che faccia, già lo sa che io faccio cose buone, non preoccuparti, ci metto tanto appento. E appunto malissimo per troppo zucchero, quanto zucchero è Natali? Per mezzo litro ce ne vogliono 100 grammi di zucchero. Cento grammi Gianni. Su mezzo litro di latte, un litro di zucchero, mamma mia, una dolce. Così vuoi. La crema deve essere dolce, non è una cosa piccante, è dolce. Si deve mettere lo zucchero, a meno che ci mettiamo al posto dello zucchero, ci mettiamo dolcificante. No. O fruttosio. E chissà come dice c'è crema. Una buona, il dolcificante quello che per lui è buono. Aspetta, dolcifica bene, è meglio del dietro, il dietro viene appena, quello che prendo da Italy, ce n'è un bel e dopo è dolce, è bello dolce. Natali, ma quando tu fai bollire il latte non ti c'è la manna? Quando tu lo fai bollire, che lo vedi salendo, allora abbassi il fuoco e ci metti l'impasto, capito? Come vuole, il pelo o PS il latte? Sempre sul fuoco acceso, Natali. E allora? Ed esce una bomba. Gianni, ma tenete. Latte è parzialmente scremato o intero? Come vuoi tu. Ma guardi, se lo vuoi intero lo buono intero e se lo vuoi scremato lo buono scremato. Io sono parzialmente scremato. Intero è meglio, che è più corposo. Gianni, mica anche a te ti ho detto di mangiare il latte scremato, parzialmente scremato. Sì, kappa. Infatti lo mangio parzialmente scremato. E invece lo compro sempre intero. E a te, la crema la vuoi bene intero, tu vuoi una bella crema bomba voi? Intero, se la fai la cosa la fai bene. Parzialmente scremato lo sgrassano tutto e non si è venuto da barriera. Mettilo intero. Allora abbiamo un litro di latte in trio. Kappa. E Antonio non c'è più. Antonio deve essere che sta facendo la crema. Anche lui. Secondo me ha preso gli appunti e si è fatto pure bene. Ma se su internet a vedere se corrisponde per un litro di latte. Se la fanno diversamente o se la fanno uguale. Manuele, sì, Manuele Giamagnetti. Che ore sono? È presto. Sono le 7:02. Poi fra poco devo andare a accompagnare l'aereo. Tu sarà così lontano, no? No, non è lontano. Vabbè, ma mi devo vestire, capito? Quello è il problema, non è altro. Vai con la tuta, ma se non sei in macchina al buio, che mica ti vede, mica deve scendere la macchina. Che sono in pigiama, sono in pigiama. Mi sono fatto la doccia, poi mi sono messo in pigiama sopra il termosifone a scaldare. Quando sono uscito dalla doccia me l'ho messo caldo. Gloria, grazie, cosa bella. Vabbè. Sì, Natali, fammi fare questa bella crema domani. E poi domani sera ci dici per la torta. Sì, ma la crema ce l'hai la siringa per mettercela dentro nelle paste? La compareggio, ma qui vendono i sacca a poche. ce n'è anche di Italia, ce n'è anche da Italia, dice a Capoccio. Capito? Italia, è di Italia, il negozio c'è vicino a casa, il discount, ce n'è. Ah, ma quello di su o quello di giù? Quello di giù è di Italia, l'altro non ha ISA. Ah, io ce ne so, se mi ci ammette, insomma. E vabbè, allora prendiamo lì per la siringa, vai. Così le buone Trento, la crema e i spruzzi Trento. Cioè, no, basta prendere una di quelle siringhe grosse, la metti dentro e mi fai il buco e già entra lo stesso. Che con la siringa fa? E cioè, bignino, lo apri bene bene e già metti un metro dentro. Una bruta, Tony! A Gianni gli piace vedere i pisanti, che quando il chiccio è chiuso con un osso si c'è la crema nei fianchi. Non bisogna esagerare, sennò si crema, Rubinè. Sono di quei fatticini gusti, no? Non devi esagerare spingendo. Lo so, bisogna fare piano piano. Ehi, ne metti un pochino di crema, tanto per riempire. Quando lo senti che insomma è bello pienotto, se no poi scoppiano già. No, scoppiano. Quando scoppia già dentro la bocca. Lattati, bocchinozia, è già sì. Ma è la malattia, io per esempio non vado, non ne mangiavo mai. Ma gli ammetti così ti pigli nella mano la base. Ma le passe si compravano a casa solo nelle occasioni, compleanni, queste cose qua. No, tutte le domeniche come fanno certe famiglie. Eppure io non ne ho mai cercate cose, le mangiavo quando c'erano una o due e basta, appunto. Non ne ho mai... Adesso invece mi piaceva molto perché è il frutto proibito. È schiacciato Natalino. Ho detto, è la malattia, anch'io non ne cercavo già. È la malattia che ti ruba di caro zucchero. Un secondo che mi sposto per il bagno. E come anche tua madre, te lo ricordi quanti panini ci mangiava con la mortadella, con i piattini? Vedi. Mamma per esempio dolci non ne ha mai mangiato in vita sua. Eppure cazzo, ci mangiava i ribanini con la mortadella. E a lui ci faceva stare in su la cosa, la glicemia, chissi. E la figa lo ribiazia. Una volta faceva duccia, vedi che ti devo dire una cosa. A me la vedo una figa. E tu gli hai detto, no, non gli dà figa o sta brutta che fa la glicemia, sa, non gli dà. E dai, uno solo, mi ha fatto pure un bel curativo. Vedi. E se non era per me, saremmo già prima, chissà premi, Nami. A chi la dinia secchetto, se no, chieda, ma la sosse se ne la curava. Quando è andata via, la glicemia assa, pure la glicemia di che abbiamo mangiato. Vabbè, e vabbè, sì che poteva camminare, poi non ce la faceva più. Infatti, c'è una volta all'ora di pranzo, lo sai a quanto c'era la glicemia, mamma? A 500 già. Così che abbiamo mangiato prima. Certo, quello lì è da coma diabetico. 500 in su è coma diabetico. Io l'ho avuto a 500, ho chiamato l'ambulanza. Infatti mi sono spaventato. Quando mi ha detto, ma cosa sta prendendo lì? Gli ho fatto vedere, mi dice, prendevo, era però operato. E c'era in mezzo anche il cortisone, le gocce che prendevo. Mi ha detto, assolutamente, aumenta la glicemia. E cosa ne sa io? Lo sapevo l'ospedale che io prendevo queste medicine, anche diabetico. Ma ti prende il cortisone, ecco perché la mi facevano spesso l'insulina. La mazza gliene varia. Una volta che sono andato a operarmi io, mi hanno fatto un flebo di cosa, di glucosio, ho detto ma stiamo scherzando, chiaro che sono diabetico, sì lo stiamo facendo per quello, perché gliela facciamo salire se non scende troppo, e poi facciamo l'insulina piano piano per fargliela scendere. Questo è una cosa secondo me controsenso, no? Che ti facciano il flebo di glucosio per poi fartela scendere. Piano piano, perché dice, non ci dobbiamo permettere di fartela scendere troppo, se scende troppo non ti possiamo operare. E di anni fa mi hanno fatti la parà un bel rubiano, l'ho fatti la parà, però non devi parà subito, devi parà piano piano. Dare ce l'aveva 213, ma a 113 quando sono uscito da casa. Sono arrivato all'ospedale, era 207, roba, è troppo alta, non possiamo operarlo così. Adesso le facciamo il glucosio, poi la facciamo scendere piano piano. E lui ci è arrivato. Che c'è grande farata, non mi ha operare. Infatti, non sa niente come si fa. E ho scritto via. E a me lo stesso, non hanno trovato il diabete, io non ero diabetico, no. Me l'hanno trovato all'ospedale, la glicemia 200 c'avevo. Però tu avevi avuto una volta, io me lo ricordo, la glicemia che c'era alzata, e tu mi hai detto no, sono andato, ma mi hanno detto che devo stare sotto controllo, ma non sono diabetico ancora, però c'ho, posso, ho probabilità di esserlo, e quindi devo stare sotto controllo. Ma l'avevi detto tu che ti era salito una volta e ti detto stai attento, perché cerca di non mangiare dolce, roba così, perché se no diventi diabetico pure tu. Infatti, e io stavo sotto controllo per quello, perché a me una volta mi era salita e ho fatto la curva di carico e tutto, invece hanno visto che l'assorbiva, però mi hanno detto stai attento che sennò diventi diabetico, e allora per quello che stavo sotto controllo io. Anche a me mi hanno trovato all'ospedale quando ero ricoverato per il cuore. E dopo 7-8 giorni mi hanno chiamato, il dottor Francello dice lei c'ha il diabete, io, ma voi siete matti, a me ogni giorno mi prelevavano il sangue comunque, lui dice sì, l'abbiamo riscontrato col prelievo che sta facendo, eccetera, eccetera, ma se non vedi sul diabete che in casa, e questo non si fa niente, è un merito due che viene dopo i 60 anni, ma agito. Poi ne troppo approfittato prima, io e mangiare cose dozzi, io ho sempre gelato la pianeta in casa. No, oh, ma quello, il diabete che abbiamo noi, è un diabete di vecchiaia, a me mi è venuta, lo sai una cosa, a Cagiardura pancreatite, se no non mi era aiuto il diabete, perché io non ero diabetico prima, e stavo sotto controllo, perché lo sapevo che ero predisposto, hai capito? Invece cazzo mi è giunta la pancreatite a ripilare, mi ha acciappato la glicemia alta. Lei è diabetico, e infatti quando sono uscito sono dovuto andare dal diabetologo, fa tutti i controlli, lei è diabetico, non venendo da arrivare. Quattro insulini mi va zio. Sì, ma io pancreatite non l'ho mai avuto, mi ero natalino. Sì, a te ti è venuta quella di vecchiaia, quella che ho io. Però a me se io non avessi avuto la pancreatite, non mi sarebbe venuta. Perché io stavo sotto controllo, lo sapevo che ero predisposto. E allora ci stavo attento per non venirmi. Infatti non me ne veniva a me. Quando mi è giunta la pancreatite, il pancreas non funziona più, è logico che mi è venuto il diabete. Melito 2, comunque è meglio del Melito 1, perché Melito 1 uno ce l'ha dalla nascita, si può dire. Un collega nostro ce l'aveva Melito 1, infatti lui si faceva sempre l'insulina, ma detto se non la pozzo io mi se ne andava praticamente, capito? Andame. Melito 1 è quello brutto, il diabete, quello che ce l'hai da quando sei piccolo. È un ragazzo che conoscevo io di Porto Torres. A 18 anni gli è venuto il Melito 1, cazzo, ciò che ho dovuto fare io a imparare a farsi l'insulina e tutto, a dirle alla mamma come ci si vazia, come ci si controllava e tutto quanto. A chi tu bizzino va via, chi su tipo 1, l'umaro, come ne è uscito all'ospedale anche lui, 4 insuline. Noi prendiamo anche la metformina e ritirare, noi prendiamo la metformina, se c'è una glicemia bassa che devo pigliare, e quello non è un aiuto per l'insulina, tu mi fai pigliare forse la metformina, non penso che sia beata la metformina. E al posto dell'insulina a me per esempio c'è la metformina, mi la riavvicinata e mi ha fatto male, e allora ne prendo un'altra al posto della metformina. Tu vado a cuscire, Mi ha fatto male, mi ha fatto il cazzo. Non mi posso pigliare, chissà come ne ha ordinato un'altra. Una pastiglia al giorno prendo io solo. E l'insulina quella lenta per la notte, per non togliermi anche quella. Perché io la tengo abbastanza sotto controllo l'insulina, capito? La glicemia. E la meglio per guidare in basso, Forse era meglio, perché mi obbligli che cose, dai. Non so, a me c'è qualche che non ascolto, che poi mi viene i brividi. Invece fa vedere un po' di notte che sono più buoni. Oppure una porchetta, vedi, buona. Che cavolo. La pasta a forno, come ha detto Gianni. Gianni, beh. Beh, e sono tutte cose che piacciono a me. Purtroppo. Questa è la vita pure. Ehi, sono rientrato. Caffa, di Antonio. Vabbè, comunque, anche se siamo così, diciamo che purtroppo è cose che succedono, non è che lo posso bagnare manco più un dozzino. Io qualche giorno me l'assaggio ogni tanto. E infatti, ogni tanto uno può mangiarcela una, ma se uno eccede non va bene, perché ti sale troppo l'insulina. A me, io ho visto che quando gli compravo i pasticcini a mia moglie la domenica, me ne mangiavo tre o quattro di questi pasticcini e non me la faceva salire più di tanto, hai capito? Si mangio quattro bassi, mi sta stato di dentro, io ho un grido. Ho detto, praticamente sono i bocconcini, sono bocconcini piccolini, quindi non è che sia con quattro di ghisce come ti mangi una bacia, boh. Infatti, quando uno se ne mangia una, tipo io se vado al bar e mi voglio pigliare una pasta, me la prendo e basta. Non è che sono cupendi che sto eccedendo, capito? Se uno se ne mangia un beh, allora sì. Chi lascia la glicemia? A me, per esempio, quei quattro pasticcini che mi mangiavo non me la facevano salire, perché io me la controllavo, no, lo sapevo. La domenica io glieli pigliavo i pasticcini a mia moglie. Io mi mangiavo questi due o tre e basta, no. Però solo la domenica, non è che andavo al bar e facevo colazione come prima e me la pigliavo la pasta, no? Vabbè, anche Gianni ne mangia uno e buono, quando ne ha voglia. Io separati due. No, rimaniamo e tutti rimandi per i saluti. Ciao Gianni, ciao Torino e ciao anche Antonio. Non vuoi e a Natalia. Come si chiama lì? Mi è fatta a trolle dalla Malocco. I biscotti che sono ben buoni. Non lo so. Fra, hai sentito cosa ti ho detto? Noi abbiamo di pace, tu ci rimandi con i saluti, Narotti e Romanzano. Vai, fanno troppo ingrassare quelle cose. No, fanno ingrassare, se le mangiano in tanto non fanno niente. Ma e infatti io e Torino non le stavo più mangiando. Mi conosco. Ciao Bra. Ciao Natali. Boh, sempre mangiando dolci state, vi fanno male. Meglio magna che abbaidà. Lo so, ma fanno, i troppi dolci fanno male, Toni. Lo so, va, scusate, arrivano a Zecchindai e ti sono dei più magna. Via che ti viene la gana. Almeno uno, Fioretto lo fai, dai. Vabbè. Mangia come faccio io, leggero. La bocca cresci, E quando cresci non riesci più a farmi lavorare. Gianni, va, è pulcandosi. Gianni si è commosso. Manuele, sì. Io ci sono, Stavo parlando con me, veramente, sempre di parte state parlando. Per cambiare. Non sai che uomini e donne, quello Biagio napoletano, rappresentante mozzarella, tra le cultura Maria De Filippi, sono l'uomo più felice del mondo, meno male, uno fuori, a ve ne sono anche due. Adesso chiamano a te. Magari, io faccio rappresentante di parte. Le zuppole mi mando la mattina io. Sono ben buoni quei biscotti della Malocco qui, mamma mia. Coraggio. Antonio ti fa male. Coraggio. prendo quelli perché sono sotto, come dice il generale, sono a lungo un tappone, perché gli altri fanno un po' cagare, capito? Come si chiama? Tu sai, ma mi prendevo così, ho già, e voi invece ci ho ripensato, basta, per dopo 2-3 mesi che rimaniamo, allora fette biscottate integrale, basta, ragazzi. Andare, Natalie, e tu, niente, ora sai, va. Una volta sono andato da casa di Torino, è nata la credenza, gli ha venuto la bocca di roba d'ossi, per dire, di che c'ho te cassetta di ciò, e se ne vide pure te rimane. Però quando mi ha detto la cura non dice nulla, mi si è avviato tre panettoni prima di andare e poi dice devo comprare i panettoni e quei tre già mangiati, tutti già mangiati, compreso. Ah, ma io avevo invitato, diciamo gente, eravamo anche un mezzo, eravamo in sette. Sempre tu e il tuo cognome, tutti invitati, due o tre eravate insieme. No, c'avevo gente, diciamo miei figli, c'era altra gente, da amici e cose. Guarda che tu le hai comprate il lunedì con me, e il giovedì non ne avevi più. Ma che cosa? Hai fatto tu? Ehia, io mi sono segnato tutto nel diario nero, mi. Sì, allora ci ho fatto un po' che ripresa che sono venuto, ma carità. Franco. Dimmi, Dori. Trovo capito, Gianni. Meglio la cambia la scaduta, qua. E carogna, Vittorino, non fa andare a mangiare con... Prima mangia da qui in nega, comprese, mangia in nega. E tu non fate andare a mangiare con lei. Ti sputtana, guarda, dici tu. Infatti invece tu mi fai le foto e le metti sulla Nuova Sardegna. Facebook, il Facebook con i buoni, Gianni. Bubu, andiamo qua. Andiamo qua, andiamo. Andiamo, bubu. Oh, yeah. Dai, non mi fidare di dica. Comunque Torino è una galona, ti sputtana. Ha contato anche quelle paste che ho mangiato, ma te le immagini per dire il numero esatto. Perché il conto era quello. No, dai, non lo vedi, no. Il conto era quello, cioè, la matematica non è opinione. Ma tu ti nati basso dall'ella proto. Protonella. Scusa, il conto è questo. Allora, se tu copri 10 passi, o due... Sempre sputtare. Poi, se lo porta a casa, no, io lascio tre mani di più taglio. E ce ne ho tre, tanto ci ha mangiato, Edu, da 7. A rimanere 3, 4. Oh, io l'avevo posizionata la Nuova Sardegna. Dai, che si dice, fa per ridere, dai, più che altro, dai, ce lo sappiamo che te l'hai mangiato, sì. Paro che si chiede Manino Lurudino, Manino ha un baguette intera con la mortadella, 2 etri di mortadella stamattina, ci ha mangiato una baguette in tria. È calda calda con la morta dell'ossa, quella effetti grande grande al pistacchio. E già, infatti, ma poi non ho toccato niente a casa, nulla, solo un'arancia e buh, non è che abbia mangiato altro. Mi sono coricato. Poi quando mi sono alzato verso le 5:15, mi sono mangiato uno di quei budini al cioccolato, vedi, questo te lo sto dicendo adesso, perché me l'ho dimenticato. E mi credo io, oi, e tu i suoi tammaniato. Vabbè, comunque il dolce l'hai continuato a mangiare. Se non hai mangiato un impasto, ti hai mangiato un budino di cioccolato. Boh. E vabbè, c'ho anche i gelati ancora a me. Cornetti, biscotto. Ma non ho aggiunto nulla di gelati. Non mi viene gana che è troppo freddo. Quindi, Natalie, la baguette vuole calda. Era budendi Natalie, non ve l'ha giovata di andarmene a casa, no? In macchina stessa, in parcheggio, ho aggiunto un buco giusto e mi butti della mortadella. E così quando io andavo a fare il pisa alla coppe, ma non c'è più, dice che non c'è più, che ha chiuso. Ma non faccio manco un buccetto, io ci l'ha giocata a Franco, l'ha giocato. E ora ma coltello non ne ho per potermi fare cazzo la baghetta, cazzo, ma... Tony, devi andare in via Porto Torre, se lì la fanno ben profumata. E da quel profumi di tutto l'ambiente. Ma di cosa, baghette? La fanno bella... è profumata brutto. Prima ti mandi la mortadella profumata, poi profumi di... Ma aspetta, mi ha pronto oggi, ma l'ero spinta dicendo. In quel negozio dove siamo andati con Natalino. Ma c'è ancora quel negozietto. Oh, però devi andare a pescare rigorosamente a Castelsardo, Fatto, guarda, ci abbiamo un riso tutta la mattina. Cazzi, su cane, tra due fuochi e non sappia la campa si sissi. Tra, tra, i due, va, va, va. Natalia, ancora bicio il negozietto. È buono, lo so. Siamo andati a Castel Sardo a piccare i ramandenti con Gianni. Entriamo qui stupendo profumo di mortadella in questo negozio. Abbiamo un biglietto, abbiamo comprato la mortadella e i ribanini, no? Come se siamo arrivati in chiude, abbiamo lanciato i ganni, saremmo abituati i ribanini e ce l'avremmo fatti. Ma da voi, tutto il manzano, anche di brici, roba di tempalare, via. Quindi il torre macchina continua a mangiare i banini. Sì, i banini già, e i trepita. Beh, a testa. Cazzo, mamma mia, roba di temporale. Chi su cani che stanno riuscendo da... non sappia da capaci scizzi. A chi tutti e due era mi così. Pra, pra, e chi tu, va. Oh, fra, hai detto? Boh, meno male che sono a dieta tutte e due. Di Natalia ci credo, ma di Gianni, ma... Gianni, quant'è che pesi adesso? 120. Ma c'è di zenni, 120. Non è peso manco 95. Buffa. Tu arrivi, secondo me, 97 di tutti. Anche di più. Forse 100, 97-99. Ne peso quasi 78 io. Ma ne peso 100, Emanuele. Ma tu lo ti rammetti come ti eri prima, fra? Vabbè, io prima pesavo 100, 108, 110. Emanuele pesa 100 kg. Emanuele è più basso di Gianni. E quindi già, tu peserai sui... No, Gianni non ci arriva a 100. Ma... No, no, arriverà qua, 97, 98. Anche la roba fa peso, capito? Le scarpe, tutto. E quando sei robusto ci sei sempre mangiato da poco, c'è la roba che fa peso. E invece quando sei ragno, invece sei sempre ragno. Fra, sono tutti così, metti mezzo chilo di roba, un chilo di roba, là. La scarti, lo sai. Ma se sei 120, fai che sei 109. Però sempre un bel... Andiamo, dai, io vi saluto, dai, che devo accompagnare Elena, dai. Ciao, ciao. Ci sentiamo, ciao. Ciao Gianni. Oh, fra, io quanto avrò a pesare? Ciao, ciao. Ciao Gianni, comunque Riti ce l'ha riassolta dopo se coincide. Tu 75. Ciao Gianni, ciao anche ella. E tu io no, per me peserà 65-70, non di più, Natalino. È pure una paragione bizzarri di Cantubiso. Cantubiso, Natalino. Non so, guava. Perché io avevo dimagrito molto quando ero all'ospedale. Ho avuto quella malattia lì. Era uno scheletro, vero? Adesso mi peso a vedere per curiosità quanto peso. 65-70. Eh beh, Fiorellino, tu pesi 100. Se tu dici? Dai, bianco fermo, dai, che ti fa piangere il bambino. Ok, Antonio. 110, ma noi. No, gli stichi che metto a sempre mai niente e fra. 110, c'è un bel me, ma noi. Tu devi scendere almeno 10 kg. No, 20 kg. No, lui deve scendere 45 kg, deve scendere per dare peso a forma. Sassari, lui la tirò, Tappiri, dare zinco. Se c'è il zinco, ti fa Sassari, Sassari, coso, la tirò, sognati, a tre volte. Vedi come le scende la pancia, sono bicicletta. Oh, fra, ma è inutile che non si mangia tutto, cioè si fa 6 km a piedi. Tanto poi magna 7 ganasci, 3 kg di pane, mortadella, porcetto, pasta al forno, come ti fazi? Quella roba, il porcetto, quella roba grassa, fa male, fa ingrassare un bel... Sacchizza, cacio, di tutto magna. No, no, no, no, non andava. Cosa hai detto, Manuè? Hai detto? Ma invece di mangiare il porcetto, roba grassa, mangi un po' di pesce, oratelle, verdura, elimini il pane un po', capito? È quella roba lì che ti fa ingrassare, il pane, la pasta. Ma vai, io non ho mangiato l'intera stamattina con la mortadella, no? baghetta calda, mortadella, bella belluccia, che ha quelle fette grandi grandi, a pistacchio. Natali, non si può fare né cacio né lana. Ed io, ma hanno fammi mari, ne mangio mezzo di panino e ne capo pure la mollicca da dentro. Ma in più la baghetta sto con la mollicca? Ma te su tre baghette l'ho mangiato. Cazzo! Io che ho commentato, ma dai, 10 giorni fa pesava 100 kg. 2 settimane fa massimo. Cazzo, 10 kg in più ho aumentato. Ma non è che devo portare a Houston nel Texas, torno da istruttore, no? A te ti vuole un balloncino, te lo dico io, e poi te lo gonfiano lo stomaco. Quello che ho visto io in televisione, hai visto? 360 kg. Io ho visto uno 430 e poi muscio. 360 kg, con la gru l'hanno preso. Sì, anche quello 430, con la gru anche non ve la vazia, esciuga, quanto lardo che ci aveva. E mangiava sempre, ya. Se non ci passava neanche dalla porta, figurato un po', ne potevi fasciare a Iana a fare le scie. Mi hanno buttato la porta e sono entrati con la gru a toglierlo fuori. Oh, io, bombo. Ai, ai, ai. E così è. Oh, io stasera vi faccio un bel minestrina con dado, con un po' di formaggio, bello, bello, lascio le ciocche, No, voglio mangiare un po' leggero, voglio mangiare stanotte. Ma lo sai quanto ne peso? 64. E io ho detto 65 massimo 70, quindi mi sono avvicinato io, ho detto 65. Ma giocava ad un chilo di roba che possavi, perché ne peso 65 e quindi saranno i 64, dai. Sì, ma il peso tuo è quello lì, già stai bene così. Magari pensavo io ci ho dato. Ma io ero diventato uno scheletro, mio, ero diventato. Mi dilla Gianni o a Franco. Io ne peso 90, non riesco la niga. Oh, quando mi ricoverano i pilari, caso strano, scendo 10-12 kg goipo. In caso riesco a fare, e qui chi mangio la pasta la mangio, quella che mi davano a mangiare, mangiavo. Il pollo, le patate, che lascio. Cazzo, ne mangio in casa ingrasso, ne mangio i pilari e non ingrasso. E volete mai? E boh. È cucinato diversamente e mettono poco, lo fanno, l'hanno più che altro, si può dire che è bollita, capito? Con un goccio d'olio. La roba che mangia all'ospedale non ti fa ingrassare. E allora, i condimenti che fate in ingrassare? Vabbè, io non è che metto molto condimento. Io quando cucino la pasta, un po' di pasta, manco sale metto, fate il conto. Perché mi ha detto di mangiare insipido. E io infatti a me salato non mi piace, sale non ne muovo mai. Mi ha detto faccio il baratto e viene di sale, manco l'idrato. Dai, ma non è il sale, è l'olio, capito? È troppo olio, l'olio d'oliva, tutta questa roba. E tante cose ci sono, nella dieta bisogna mangiare verdure, poca pasta, la pasta pesata, poco pane, se possibile pane integrale, tutta roba così. A me mi ha detto mezzo panino. Sì, ma io a trasgredire come la baghetta stamattina, secondo me sta bagnando, fra. Io mangio fette biscottate integrali, un coso di latte, 3-4 fette biscottate, non di più, e se mangio. A volte, quando prendo un po' d'arrosto, lo faccio per il cane, tocco tutta la pelle che è salata, poi l'ultima finale, pezzettina, ne mangio io. E non, cosa mi rimane? Nuda e magna, nuda, e allora cosa posso? Niente, poi mi mangio un accio e so cappuccio. Ma dite, molte volte non mangio quasi niente. Eppure che avanza non impara. La dieta. Diolite devi pigliare, la diolite, capito? Quella lì, la diolite, aloe, sta quella roba lì, e te ne fa scendere la pancia. Bisogna dire Lucia, fammelo fare allora. No, è cazzo perché io pesavo un bel, pesavo quasi 118 kg. Cioè, adesso peso 75, massimo 76, 78, però di più non salgo, Sì, ma poi quella cosa lì la di non la prendi fissa però. Sì, fissa, ogni giorno la devi prendere. Se no è guardi che non è biglietto lì. Capito, poi deve sciogliere i grassi praticamente. Ma non che una volta sussurti che sei dimagrito, cosa ti sciogli ancora? Ti blocchi, non ne prendi più? Certo, una volta che dimagrisci non ne prendi più. Mi sa che la cura è 15 giorni. Mi sa che lo potremmo fare per forza pure io, dai. Anche se no ci ammazza il casino, No, a parte che poi non riesci più a muoverti. C'è problemi a allacciarti le scarpe, è un casino. ne soffre anche la schiena, quando sei sovrappeso la schiena ne soffre di più. Lo so, è stato operato poi la schiena, penso un po'. Capita. Gaiese, e tu Natalì, come hai fatto a scendere? Che non malato, mi sono comparato. E poi, non hai continuato la grossa quando sei finito da ripidare? Ma lui mangia regolare, Tony, capito, fa la dieta giusta, è per quello che non è grasso. Io non mi riesco. E le paste, tutta questa roba dolce, quella fanno ingrassare, c'hanno vedi grassi, capito? Specialmente la crema, questa roba. E domani devo fare la crema in casa. Allora domani ingrasso una fetta di cucchini. No, non etto, due etti, non di più. Sì, mangia dolce, poi vai da vedere. Santo Antonio di Gallura. Adesso io stanotte ho mangiato risotto, un po' di risotto alla milanese, capito? Secondo, insalata e un uovo sodo. Basta, senza pane. Vabbè. Mi ha detto l'uovo, il giallo non mangiarlo, soltanto il bianco. Ne puoi mangiare quanto ne vuoi, non ti fa ingrassare. Sì. Il bianco è l'uovo, sì, quello sì. Infatti, le uova che ciò mi sa me ne posso solo il bianco. È un peccato buttare il giallo, perché con lo zucchero lo giravi quasi tutta maiola che monoga. E l'avevo brullato di bagno, mazzano. No, ma lo devo buttare per forza, mi frigo quello lì, un po' di ketchup, che buono. E vabbè, lo puoi usare per farti le frittate, non è che la fritta te la puoi fare. No, che domani devo fare la crema all'uovo giallo, mi serve, capito? Ah, ecco, ecco, capito. Ho messo un bicchiere domani, via, si fa la cremuzza. Io ti apro una pasticceria dopo. Giù mai pasticceria. Andrà bene, dai signori, le 8:20, che avremo quel 7 al giornale, me lo guardo. Anzi, poi me ne vado sul canale Nova che c'è Pino gli altri colpi. E io ogni domenica me lo riperdo, adesso me lo guardo però. Alle 9:35, alle 9:30, la fa del genere inizio, o 25, Andrà bene, ok. Ciao Natalino, se l'ascolto. Ciao Franco, eventuali ascoltoni. Antonio Sesso e Quirix, c'è anche a lui. E al figliuzzo, alla 50. Saluta mia Lucia, Franco. Ci sentiamo, dai, stammi bene. Cuore tango da parte mia. Ciao, ciao. Ciao Tony, buon cuore, ti buon tutto. Ci vai ad ascoltare il prossimo. Quattro ha cambiato, anche da parte sua. Ok, vai, vai Natalì. Ciao Tonino, ciao, alle prossime. Ciao ciao. Così Natalì, non bisogna mangiare, bisogna mangiare leggero, la notte specialmente, gatto, vabbè a pranzo, vabbù. Ma di notte, io se mangio pesante la notte non riesco a dormire, capito? Sto gira a gira. Vabbè, già lo so che bisogna mangiare, io non è che ho ingrassato tanto, io sto bene adesso. Però prima eri uno scheletro, non hai visto mentire prima. Ma va bene, il peso tuo va bene Natalì, ma anche 65, capito? Ma io sono arrivato fino a 64 e non mi sono mosso di lì. Perché deve essere che ho trovato, ho indovinato la dieta giusta, basta non eccedere. Beh certo, dipende sempre chi su chi mangi, se segui la dieta così che mangi regolare non ingrassi. Infatti. Ma dopo il problema, quando tu ingrassi, come te la banza, e poi a buttarla giù non è facile, hai capito? Sì, ma... a mangiare, se tu più ne hai, più ne mangi, la pancia cresce sempre di più, capito? Poi a farla buttare giù, cazzo, un casino, a buttarla giù dopo. Sì, cazzo, c'avevo la 50 io di pantaloni quando stavo bene. Io ho 50 di pantaloni. Prima va via la doppia XL e mi era stretta, pensa tu. Quando uno è grasso. E adesso. Ma tu non è buia adesso. Allora la roba che ci ho buttato, giù butti, camice, perché ci stavo 4 volte dentro. Poi io, vabbè dai, me ne vado a vedere un po' di TV io. Vado a fare carica batteria e poi mi guardo un po' di televisione. Ciao Natalì, saluta in casa. Non credi buon tutto quando lo fai e io passo in quel RT lo stesso. Saluto gli ascoltoni, eventuali SRT, dai. Ci aggiorniamo. Sì, ciao Fra, ci aggiorniamo. Anch'io chiudo adesso che... che sto cenando. Ci sentiamo alle prossime, dai. Salutoni a tutti, anche agli SWL in ascolto. Ciao, ciao, buonanotte, ciao.